Just a kiss, just a kiss. I have lived just for this. I can't explain why I've become Rubrica di cultura letteraria lesbica femminista presenta Wisława Szymborska e la poesia del quotidiano. Non c'è vita che almeno per un attimo non sia immortale. La morte è sempre ritardo di quell'attimo. Il primo febbraio del 2012, quindi poco più di un anno fa, moriva Wisława Szymborska. Noi siamo qui a ricordare doverosamente una grande poeta, forse poco conosciuta, ma che a me e a Genzini piace tanto. Certo, se dovessi dire come ho incontrato Szymborska, non lo ricordo. Se non lo ricordi, ovviamente te l'ho fatta conoscere io. Guarda, che io Wisława l'ho conosciuta da sola. Se ti piace immaginare che sia andata così, che dire, ognuno ha diritto, oltre che a un attimo di immortalità, anche a raccontarsi delle grandi cappellate. Sembrerà strano, ma Nenzini è una grande fruitrice di poesie. Non ho mica messo in discussione questo. Lo so bene che quando sul far della sera torni all'umile desco, ecco, una scintilla di eterno, come dire, stilla nella tua anima la sacra rugiada della strofa saffica. Guarda, ho trovato una poesia che è adatta a te, Genzini. Devo molto a quelli che non amo. Il sollievo con cui accetto che siano più vicini a un altro. La gioia di non essere io il lupo dei loro agnelli. Mi sento in pace con loro e in libertà con loro. E questo l'amore non può darlo, né riesce a toglierlo. Non li aspetto dalla porta alla finestra, paziente quasi come una meridiana. Capisco ciò che l'amore non capisce, perdono ciò che l'amore mai perdonerebbe. Da un incontro a una lettera passa non un'eternità, ma solo qualche giorno o settimana. I viaggi con loro vanno sempre bene, i concerti sono ascoltati fino in fondo, le cattedrali visitate, i paesaggi nitidi. E quando ci separano sette monti e fiumi, sono monti e fiumi che trovi su ogni Atlante. È merito loro se vivo in tre dimensioni, in uno spazio non lirico e non retorico, con un orizzonte vero, perché mobile. Loro stessi non sanno quanto portano nelle mani vuote. Non devo loro nulla, direbbe l'amore, sulla questione aperta. Ma sai che è vero, santi numi? Nessuno sa quel che pagherei perché non fossimo amiche. Non mi scocceresti continuamente con i tuoi dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello. Sì. E le tue 20.000 telefonate al giorno per non dire nulla di sensato. C'è pure. E cosa dire dei tuoi sei in ritardo? Ecco. Perché la folla qui presente, sapete, e usa arrivare con mezz'ora d'anticipo agli appuntamenti, se va bene mezz'ora. E quando all'incontro stabilito da lei, preso accortamente ben due mesi prima, per esserne certa, si intende, si frappone un qualche ragionevole imprevisto, le chiama e inizia una rottura di che non finisce più, fatta di ma come? Ma che figura? Ma ti sembra normale? E adesso? Che esagerata. Bene, io anello disperatamente alla rottura definitiva della nostra amicizia. Non possiamo essere solo estranee? Guarda che te vorrei vedere a te che faresti se non ci fosse stata io in certe situazioni. Vattene pure come quelle come te, che quanto vi piacciono gli appuntamenti naif e piruffì e piruffà, dovete andare a fare le barbone. Trovatevi il vostro angolino di strada, scrivetevi i vostri poemi solitari e tutte le vostre pippe mentali e lasciate in pace chi vive nella società con civiltà, con gli orari, gli appuntamenti anche con due mesi d'anticipo, sì. Per citare Giovanna Marini, Piri piri pi pa pam pa pam piri piri pi para para pa pa pa pa pa. Ma hai fatto bene. Dmucha, ktoś pieśni mej słucha, czart chyba sam. Idę, gdzie los gna mnie, choć miasta pół zna mnie. Nie patrzy nikt na mnie, ni na mój kram. Gdy dacie rubliczki, nakarmię was. Tę prośbę mam jedną, gdy gwiazdy w krąg zbledną, wspomóżcie mnie biedną, choć jeden raz. Papa mój, mama, ja nie wiem dziś sama, dziewczyna, nie dama, mam od was mniej. Lecz szal mój jest krótki, dwóch chłopców, trzy wódki i idą precz smutki przy pieśni tej. Ach, kupcie bubliczki, gorące dacie rubliczki, nakarmię was. Tę prośbę mam jedną, gdy gwiazdy w krąg zbledną, wspomóżcie mnie biedną, choć jeden raz. A jak w tej złej dobie zarobię coś sobie, to wielki bal zrobię. Dacie rubliczki, nakarmię was. Tę prośbę mam jedną, gdy gwiazdy w krąg zbledną, wspomóżcie mnie biedną, choć jeden raz. Chi è Wisława Szymborska, questa Mozart della poesia? Wisława Szymborska nasce a Provent, odierna Bnin, parte di Kornik, nel 1923. Nel 1931 la famiglia si trasferisce a Cracovia, dove Wisława ricevette la sua prima formazione umana e intellettuale. Si guadagna da vivere con illustrazioni di libri, pubblicazioni di racconti e di poesie. La sua prima poesia è del 1945, quando aveva 22 anni. E si intitola Alla ricerca di parole. Si avvicina anche al realismo socialista, un peccato di gioventù, che si concluderà con l'abbandono definitivo del partito nel 1966. In un'intervista rilasciata nel 1998 dichiara: la maggior parte della mia generazione letteraria, non tutta, ha creduto che il sistema comunista fosse un sistema che assicurava la felicità del genere umano. E in verità lo abbiamo creduto. Bisogna dire che eravamo molto giovani, stupidi, ingenui, senza alcuna esperienza politica. A questo punto aggiungo che uscivamo da una terribile guerra e che volevamo con tutte le nostre forze amare il genere umano. Ora, e lo so da un certo tempo, non è il genere umano che bisogna amare, bensì gli uomini, gli individui, ogni individuo separatamente. E certamente questo è ciò che ho ricavato da questa esperienza. E affermo che tutte le dottrine, tutte le ideologie prendono in considerazione l'uomo come parte di una massa, ma non amano l'uomo come individuo, perché ciò non si accorda con la dottrina. Ci siamo incominciati a guardare intorno, dico noi perché era quasi tutta la nostra generazione letteraria ad essere coinvolta e abbiamo visto che quelle magnifiche formule non corrispondevano assolutamente alla realtà. Allora, lentamente, ce ne siamo allontanati. D'altronde, un umorista ha detto assai bene che la gente diventa stupida all'ingrosso, ma intelligente al dettaglio. Al che bisogna aggiungere che questo processo di istupidimento è più rapido del processo inverso. All'abbandono del partito seguì un progressivo avvicinamento alle frange più dissidenti della cultura polacca degli anni 60-80 e seguì anche un'attività di collaborazione con alcuni periodici clandestini in cui trovavano spazio tutti i contributi normalmente censurati. La sua presa di posizione politica arrivò con l'impegno concreto all'interno di Solidarność, il sindacato autonomo dei lavoratori, nato nel 1980, guidato da Lech Walesa. I'm Intanto vorrei dirti che le poesie più belle per questa puntata le ho trovate io. Non è vero, ne ho anche io una ed è proprio adatta a te che guarda, ti si cuccia addosso come la pellicola delle prugne nere d'agosto alla gialla polpa e acidula. Qua di acidula c'è solo la tua lingua, come sempre. Si intitola Lode della cattiva considerazione di sé. La poiana non ha nulla da rimproverarsi. Gli scrupoli sono estranei alla pantera nera. I piragna non dubitano della bontà delle proprie azioni. Il serpente a sonagli si accetta, senza riserve. Uno sciacallo autocritico non esiste. La locusta, l'alligatore, la trichina e il tafano vivono come vivono e ne sono contenti. Non c'è nulla di più animale della coscienza pulita sul terzo pianeta del Sole. Per chi si fosse collegata solo adesso, ricordiamo che in questa puntata ci stiamo occupando di Wisława Szymborska e dei suoi scritti, poesie, prose e pezzi di critica letteraria per riviste e quotidiani. Quando si parla di Wisława, le tre parole chiave sono l'ironia, la modestia e la quotidianità. Qualche poesia piace, diceva, a fronte delle rilevanti vendite dei suoi libri. Quando qualcuno le chiese come mai non avesse pubblicato più opere, rispose: anche a casa mia c'è un bidone della spazzatura. Ricordiamo la motivazione con cui l'Accademia di Svezia accompagnò l'assegnazione del Nobel alla Szymborska. Una poesia che, con ironica precisione, permette al contesto storico e biologico di venire alla luce in frammenti d'umana realtà. Grazie a questa ironia, Szymborska riesce a trattare temi spesso crudi e dolorosi, come la morte o la sofferenza, e ad indagare i sentimenti, i conflitti, i dubbi esistenziali. Il suo è uno stile puro, sobrio, fatto di brevità e semplicità linguistica, capace di essere diretto ed essenziale, pieno e profondo. A proposito della sua poesia, si è parlato dello stupefacente dell'ordinaria esistenza del mondo e della vita umana. Le sue armi sono humor e paradosso. Questa si intitola La mano. 27 ossa, 35 muscoli, circa 2000 cellule nervose, in ogni polpastrello delle nostre 5 dita. È più che sufficiente per scrivere Mein Kampf o Winnie the Pooh. E sempre a proposito di Hitler, la prima fotografia di Hitler. E chi è questo pupo in vestina? Ma è Adolfino, il figlio dei signori Hitler. Diventerà forse un dottore in legge o un tenore dell'opera di Vienna? Ma di chi è questa manina? Di chi? E gli occhietti? Il nasino? Di chi il pancino pieno di latte? Ancora non si sa. D'un tipografo? D'un mercante? D'un prete? Dove andranno queste buffe gambette? Dove? Al giardinetto? A scuola? In ufficio? Alle nozze magari con la figlia del borgomastro? Bebè, angioletto, tesoruccio, piccolo raggio! Quando veniva al mondo un anno fa, non mancavano segni nel cielo e sulla terra. Un sole primaverile, gerani alle finestre, musica d'organetto nel cortile. Un fausto presagio nella carta velina rosa. Prima del parto un sogno profetico della madre. Se sogni un colombo, è una lieta novella. Se la acchiappi, arriverà chi hai lungamente atteso. Toc toc, chi è? È il cuoricino di Adolfino. Ciucciotto, pannolino, bavaglino, sonaglio. Il bambino, lodando Iddio e toccando ferro, è sano. Somiglia ai genitori, al gattino nel cesto, ai bambini di tutti gli altri album di famiglia. Beh, adesso non piangeremo mica. Il fotografo farà clic sotto la tela nera. Atelier Klinger, Cambestrasse, Branau, e Branau è una cittadina piccola ma dignitosa, ditte solide, vicini da bene, profumo di torta e di sapone da bucato. Non si sentono cali ululare né i passi del destino. L'insegnante di storia allenta il colletto e sbadiglia sui quaderni. L'ironia di Cimbosca trapela fortissima anche dalla sua critica letteraria. Dal 1953 al 1981 prima dirige e poi collabora esternamente al settore poesia del settimanale Vita Letteraria. Le risposte di Wisława agli aspiranti scrittori sono un perfetto esempio della sua ironia. Un racconto può, in mancanza di meglio, non avere né inizio né fine. Il centro, però, sembra necessario. Tutto a questo mondo si distrugge per il continuo uso, tranne le regole grammaticali. Se ne serva con più coraggio, signora, bastano per tutti. Devo dire che questo libricino è veramente una piccola chicca. Non è più piuttosto, in giro non c'è più però è veramente molto carino. Cercatelo. Sì, Vita Letteraria, l'edizione mi pare che Posta sia. Letteraria. Sì, infatti, Posta Letteraria. Una costante della poesia di Gin Bosca è anche il caso. Nella concezione della poeta tutto avviene per caso, senza un perché. L'esistenza stessa è un'eccezione rispetto all'inesistenza, non ha una ragione d'essere, esiste e basta. Non vi è alcuna necessità che una cosa accada. Come riconosce Gin Bosca, la necessità coincide con la causalità. Casualità, scusate. Chiedo scusa al caso se lo chiamo necessità. Chiedo scusa. Chiedo scusa al caso se lo chiamo necessità. Chiedo scusa alla necessità se tuttavia mi sbaglio. Non s'arrabbi la felicità se la prendo per mia. Mi perdonino i morti se ardono appena nella mia memoria. Chiedo scusa al tempo per tutto il mondo che mi sfugge a ogni istante. Chiedo scusa al vecchio amore se do la precedenza al nuovo. Perdonatemi guerre lontane se porto fiori a casa. Perdonatemi ferite aperte se mi pungo un dito. Chiedo scusa a chi grida dagli abissi per il disco col minuetto. Chiedo scusa alla gente nelle stazioni se dormo alle 5 del mattino. Perdonami speranza abbraccata se a volte rido. Perdonatemi deserti se non corro con un cucchiaio d'acqua. E tu, falcone, da anni lo stesso, nella stessa gabbia, immobile, con lo sguardo fisso, sempre nello stesso punto, assolvimi, anche se tu fossi un uccello impagliato. Chiedo scusa all'albero abbattuto per le quattro gambe del tavolo. Chiedo scusa alle grandi domande per le piccole risposte. Verità, non prestarmi troppa attenzione. Serietà, sii magnanima con me. Sopporta, mistero dell'esistenza, se strappo fili dal tuo strascico. Non accusarmi, anima, se ti possiedo di rado. Chiedo scusa al tutto, se non posso essere ovunque. Chiedo scusa a tutti, se non so essere ognuno e ognuna. So che finché vivo niente mi giustifica, perché io stessa mi sono d'ostacolo. Non avermene lingua, se prendo in prestito parole patetiche e poi fatico per farle sembrare leggere. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know sometimes, baby, I'm so carefree, with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get more than my share. But that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. I'm just a soul losing. I try so hard, so please don't let me be misunderstood. Il terrorista, lui guarda. La bomba esploderà nel bar alle 13:20. Adesso sono appena le 13:16. Alcuni faranno in tempo a entrare, alcuni a uscire. Il terrorista ha già attraversato la strada. Questa distanza lo protegge da ogni male, e poi la vista è come al cinema. Una donna con il giaccone giallo, lei entra, un uomo con gli occhiali scuri, lui esce. Ragazzi in jeans, loro parlano. Le 13:17 e 4 secondi. Quello più basso è fortunato e sale sulla Vespa, quello più alto invece entra. Le 13:17 e 40 secondi. La ragazza, lei cammina con un nastro verde nei capelli, ma quell'autobus d'improvviso la nasconde. Le 13:18, la ragazza non c'è più. Se è stata così stupida da entrare oppure no, si vedrà quando li porteranno fuori. Le 13:19, più nessuno che entri, pare. Invece esce un grassone calvo, sembra che si frughi nelle tasche e alle 13:20, meno 10 secondi, rientra a cercare quei suoi miseri guanti. Sono le 13:20. Il tempo, come scorre lentamente, deve essere ora. No, non ancora. Sì, ora. La bomba. Lei esplode. Nulla accade due volte. Ne accadrà. Nulla accade due volte, ne accadrà. Per tale ragione si nasce senza esperienza, si muore senza assuefazione. Anche gli alunni più ottusi della scuola del pianeta, di ripetere non è dato. Le stagioni del passato. Non c'è giorno che ritorni, non due notti uguali uguali, né due baci somiglianti, né due sguardi tali e quali. Ieri, quando il tuo nome qualcuno ha pronunciato, mi è parso che una rosa sbocciasse sul selciato. Oggi, che stiamo insieme, ho rivolto gli occhi altrove. Una rosa? Ma cos'è? Forse pietra o forse fiore? Perché tu, malvagia ora, dai paura e incertezza. Ci sei, perciò devi passare. Passerai. E qui sta la bellezza. Cercheremo un'armonia, sorridenti, tra le braccia. Anche se siamo diversi, come due gocce d'acqua. Da un'intervista a Wislawa. Per un periodo sono stata molto credente. Adesso si sente dire che la perdita della fede ha aperto la strada al comunismo. Nel mio caso le due cose non hanno avuto niente in comune. La mia crisi religiosa non nasce dal sapere che il parroco va a letto con la perpetua. I miei dubbi sono di natura razionale. Non sono assolutamente d'accordo con l'opinione di Dostoevskij che se Dio non esistesse tutto sarebbe ammesso. È un pensiero ripugnante. Esiste un'etica laica che è nata attraverso lunghi secoli e grandi sofferenze e che naturalmente deve molto al decalogo. Nanzini. Dimmi. No, mi chiedevo, no? Così. Sì. Ma tu ce l'hai pronto un epitaffio? Sì, ti sembrerà strano, ma è una poesia di Emily. La stella quando stilla. Ma tu non smetti mai di stillare, no, vero? Senti qua, leggi invece l'epitaffio di Wislawa. Epitaffio da Sale, 1962. Qui giace come virgola antiquata l'autrice di qualche poesia. La terra l'ha degnata dell'eterno riposo, sebbene la defunta dai gruppi letterari stesse ben distante. E anche sulla tomba di meglio non c'è niente di queste poche rime di un gufo e la bardana. Estrai dalla borsa il tuo personal, passante, e sulla sorte di Szymborska medita un istante. E ascoltiamo allora una delle canzoni preferite di Wislawa, Black Coffee. Naturalmente l'ascoltiamo dalla splendida voce di Ella Fitzgerald. I'm feeling walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down brew. I'll never know a Sunday in this weekday. To the shadows, 1 o'clock to four, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my, I'm hanging. Morning, all the night, and in between it's nicotine and not much heart to fight. Black coffee, feeling low as the ground. It's driving me crazy. To maybe come around. My nerves have gone to pieces. My hair is turning gray. All I do is drink black coffee since my man's gone away. Tra le sue opere ricordiamo le pubblicazioni italiane La gioia di scrivere, Tutte le poesie, 1945-2009 Domande poste a me stessa, 1954 Letture facoltative, 1992 La fine e l'inizio, 1993 Vista con granello di sabbia, 1996 Posta letteraria, ossia come diventare o non diventare scrittore, e questo veramente lo consigliamo, cercatevelo perché è veramente delizioso. Basta così del 2012. Basta così, Genzini? No, non basta. Mettiamoci anche le... Insomma, tutti voi vi sarete chiesti... Tutti si sono chiesti, guarda. Ma guarda, le sento, ci siamo chiesti. Ma che so... Questo ritmo che abbiamo sentito qua e là... Ma tutte se lo stanno chiedendo, Genzini. Allora che ci dici? Abbiamo ascoltato nell'ordine Bublicki, cantata da Beata Ribotticca. E andatevela a cercare anche questa. Skin con I Can Dream. E questa è già. Nina Simone con Don't Let Me Be Be Me Me Me Understood, bellissima. E mi raccomando, Stanislava Cialisca con Mie Yestes Sama. E per concludere, Ella Fitzgerald con Black Coffee. Allora, noi vi auguriamo, noi del Terzo Orgasmo, vi auguriamo una serata ed una nottata colme di poesia. Perché dentro ognuna di noi, sapete, si cela una poeta. E allora fatela venire fuori, sta poeta che è in voi. Stillate, stillate. Stillate anche voi. Dunque, il terzo orgasmo vi dà appuntamento con la prossima trasmissione alla fine di aprile, proprio il 30, così chiudiamo in bellezza il mese. Lo apriamo e lo chiudiamo. Lo apriamo e lo chiudiamo, è vero, lo stiamo aprendo e lo chiudiamo. Ma adesso va. Basta pensieri profondi. Ma perché ci avevo pensato che l'abbiamo anche basta aperto? Effettivamente, va bene. Vai. E comunque vediamo il nostro indirizzo mail se volete invitarmi a cena, è il terzo orgasmo @gmail.com. Io attendo e attendo. Se e volete adesso... segnalarci anche altre cantanti polacche, anche polacche, russe, noi siamo qui. E adesso per restare in tema, naturalmente la nostra sigla che è di Alina Orlova, Menulis. Nessa Genziana vi salutano. Ciao. Ir Menulėje nevyksta karas, o Menulį daug valgyklų, kur nemokamos bandelės. O Menulėje gyvena elniai, jų nenumuša mašinos, kai jie žiūri šitaip švelniai, net vaikams nėra anginos. Ten kiekvienas pats sau nojus, ten visai nereikia skėčių. O Mėnulyje yra drakonų, jos paglostyti gali.